c'è bisogno di fare qualcosa perché, vista da lontano, l'Italia assomiglia a un paese delle fiabe, con i castelli, i tesori, i principi, e quindi poi a un certo punto ci si rende conto che c'è come un incantesimo che... Lei dice, eh? Cioè, allora, sì. Quelli che stanno qui, secondo lei, sono tutti vittime di un incantesimo? Questa è un po' la storia della canzone, sì. Dunque, quelli che stanno in Italia, che sono rimasti in Italia, sono vittime dell'incantatore Berlusconi. Sono vittime della televisione, perché la canzone parla della televisione, quindi la televisione come diciamo mezzo che in qualche modo ha preso il posto di altre cose, ha preso il posto della comunicazione, ha preso il posto del giocare, del parlare, del leggere, dell'uscire, insomma, quindi non lo so, penso che in qualche modo l'invito sia quello a spegnere la televisione e fare qualcosa di diverso. Io non sono qui per puntare il dito, per accusare qualcuno, ci sono già molte persone che lo fanno. E poi l'Italia, ma anche il resto del mondo, è pieno di cavalieri neri, di persone che non sanno più usare l'intelligenza del cuore, che usano solo l'intelligenza del cervello, quindi il denaro. Io sono qui per invitare tutti a fare qualcosa di concreto. Facciamo ciò che dice la mia canzone, cioè questa sera spegniamo la televisione.